Se noi due ci incontrassimo di nuovo, allora guai. Penso che non ti lascerei più andare, perché è così e non si può far finta sempre che ci sia tutto l'azzurro che non ho, la luna in casa mia, perché non mangio quasi più, la compagnia mi butta giù nel nostro letto, amore mio, ci dormo solo io, perché così c'è sempre chi si innamora un po' di più e dice quasi sempre sì, tra noi non eri tu. Io non vorrei, ma tu sei più forte dei pensieri miei, io lo so che così non può durare, perché è così e non si può dire agli amici tutto ok e dopo avere pianto un po' pensare a dove sei, perché tornare è una pazzia più assurda che sentirti mia, ma io non ce la faccio più, mi manchi troppo tu, perché